è pazzesco, sono le 7:30. Siamo sempre troppo precisi. No, cambio Spadino, non mettermi Led Sunshine. Se non la devo cantare svengo oggi. Cambiala, per favore, cambiala, cambiala, cambiala. If you have a problem, grazie. If no one else can help, grazie. If you can find them, maybe you can hire the A-Team. 7:30 minuti primi. Pa-pa-ra-pa. Ciao Gianfra. Saluti anche a Mary, Rock and Roll Girl. Se non ricordo male era quella che aveva proposto la petizione per iniziare scuola alle 9:30. Molto bella come idea. E a casa sta malissimo, l'unica cosa bella è non andare a scuola e poter finalmente sentire Pane, Burro e Rock and Roll fino alla fine. Brava Mary. Facci sapere poi se ti piace tutte e due le ore. Salutiamo Filippo, salutiamo Al da Forlì. Ah, questo è preoccupante però, Sto leggendo gli sms, Buona giornata anche a voi che vi siete sintonizzati adesso. Questo è PBR, c'è l'Ariele. Oh, Arie, sono entrato al lavoro e c'è una notevole puzza di gas. Se dovessi fare il botto, vi dico che è stato un piacere conoscervi. Oh, Al, teniamolo sto sms, che se succede qualcosa. Oh, guarda anche questo, da Lucca. Mamma, Deborah e Elena, andiamo a Londra, dove mamma abitava. Salutaci, ci mancherete. Ah, ma detta così sembra che ve ne andate... Cioè, tipo, andate per tanto? Ce lo raccontate? Andate a vivere a Londra, mamma e figlia? Molto rock. Siamo interessati, Può interessare? Interessa, interessa. Qua si piglia tutto a Pane, Burro, Rock and Roll. Andremo a rintracciare qualche amico. Si è prenotato Filippo per la telefonata sul boss. Sì, sì. E tra questi sono i Black Sabbath, Iron Man. Un amico l'aveva già fatta con la bocca questa. Mi sembra di sì. Sì, sì. No, guardavo la scaletta come un cretino. Raku! giovedì 29 di novembre, ben sintonizzati sulle frequenze di Rock FM. Forse una domanda passa attraverso i vostri cervelli in risveglio: chissà chi ha compiuto gli anni quest'oggi. Esatto, noi siamo in grado di fornirvi una lista dei nati il 29 novembre. Mio caro Frick, iniziamo con il 1933, quando nacque John Mayall. Quel grande Mayall. Sì, grandissimo bluesman. Grandissimo bluesman che ha tenuto a battesimo tutti, certo, i grandi musicisti, certo, rock, pop rock, ma soprattutto rock dell'Inghilterra. Sarà grande. Contento invece di scoprire che nacque il suo stesso anno, ovvero il 1954, annata di ferro, sì, uno dei due fratelli Coen, uno dei miei registi preferiti, sì, Joel Coen, quelli dei grandi magazzini, no? No, grandi... no, i fratelli Coen, niente così. Regista, ricorderei qualche film, magari li ricordo io. Vorrei invece ricordarli in qualità di Mike, ci provi. Vorrei allora, ricordarli se io giusti. Mister, allora abbiamo Mister Kulasop, bravo, no, Mister Hula Hoop, poi Cargo, no, Fargo, non facciamo, poi il grande Lewinsky, no, il grande Lebowski e Fardello dove, no, sei fratello dove sei. Allora avrà notato che non ne ho azzeccato nemmeno uno. Esatto, e ne vado orgoglione. Ho invece paura che azzeccherai i saluti delle ultime due bellezze che tributiamo in questo 29 di novembre. 1967 nasceva Ursula Cavalcanti. Sa con un cognome così cosa faceva? Tiro a indovinare. Provi, vero, provi. Così su due piedi, sì, anzi su quattro zampe, sì, la campionessa d'equitazione. No, no, no, no, faceva la porno star ed è stata anche imprenditrice italiana. Mentre solo porno star, salutiamo la bella Cristina Bella, che nasceva nel 1981, attrice porno ungherese, di cui ho tutta la discografia a casa. No. Nella stanza segreta. Era una porno attrice, tra l'altro ne segnaliamo sempre un sacco. Dall'Ungheria arriva il salame e le pornodive. E le pornodive, e noi ne siamo ben lieti e ben contenti. Ci piacciono entrambi. Sì, molto. Più le pornodive, però. Ma anche il salame. Anche il salame. Però più le pornodive. This dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, if you're dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and crying. Watch his hand been turning gray. He's been working and slaving his life away. Oh yes, I know. He's been working so hard. Mama been working too, baby. Every night and day. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due, know it. Watch my daddy in bed and die, watch his hand been a turning gray, yeah. He's been working and slaving his life away, I know he's been working so hard. Yeah! gonna get out of this place. Gli animals, gli animali. Andiamo a salutare un amico collegato al nostro numero di telefono. L'abbiamo rintracciato dal nostro 335-100-7777. Lui è Filippo, reduce dal concerto del boss. Ciao Filippo. Ciao a voi. Guarda, tutto bene? La cosa che ci siamo detti in fuori onda poi ne parlo io con calma dopo, però è un'idea galattica. Bene. Puntata con i bimbi, si fa. Ma occupiamoci del boss. Ieri sera a Milano, quando avevi comprato i biglietti, Filippo? Dunque, io sono andato grazie alla mia amica disabile che è riuscita a farmi entrare come accompagnatore, perché sennò non sarei mai riuscito ad andare a vedere il concerto. Salutiamo anche la tua amica allora. La Yeya, la famosa Yeya, simpaticissima. Grande Yeya. Grande lei, veramente, grazie a lei. Dopo ti chiedo anche il numero di Yeya, che non si sa mai, Va bene. Prossimo mi imbuco io magari. Grande, va bene. Com'è andata? Ma direi molto bene, come sempre è una festa ed è bello esserci tutte le volte. Anche se alle volte vedi che la scaletta non è quella che magari ti aspetti, però sì, con lui è sempre bello. Avevi già visto il boss? Sì, il boss l'ho visto già da tempo, anche dal famoso 85 a San Siro. Sì, da sempre. Ormai. Noto dai tantissimi messaggi che mi sono arrivati, insomma, che come al solito è non stato un concertone, non ha deluso. Come sempre, è bello vedere gente di tutte le età, c'era gente dai 40 ai 60, un signore vicino a me che aveva avuto i 70, col suo bell'Oden verde che ballava. Bellissimo, è sempre così, è una festa. Senti, con che formazione mi si è presentato? Dunque, c'erano tutti tranne il tastierista Danny Federici, che purtroppo è malato negli Stati Uniti. Sì. Infatti è stato molto bello vedere che non ha presentato come al solito la band. Sì. È stato molto più sobrio nel rispetto della malattia che c'ha Danny. Comunque, come sempre, tutti tirati a lucido, energia allo stato puro, e devo dire la sua voce c'era benissimo, perché si diceva che avesse un po' di raffreddori da la serata prima, invece sta benone, guarda. Senti, l'ho visto carichissimo. Sei tu l'amico che mi ringraziava per il brano di mezzanotte? Esatto, a mezzanotte io tornavo da Sago con la macchina, sì. Non aveva fatto Glory Days, infatti un po' mi mancava, e Rock Fan ce la metta. Ero venuto io proprio in radio apposta, sai, mi fa piacere che te ne sei accorto, perché bravo tu, mi hanno detto, guarda, come sempre. Non ha fatto Glory Days, allora sono corso da Gallarate a Milano e ho messo Glory Days solo per te. Io ci credo. Va bene. Andiamo con una Dancing in the Dark classicona per salutare te e tutti quelli che si sono gustati il concerto di Bruce Springsteen. Ci sentiamo presto per una puntata natalizia con i bimbi, Va bene. Tu ci proponi Vittoria a 4 anni, ricordo. Vai bene? È già lì. Fantastico. Ciao Filippo. Ciao, buona giornata. Ciao. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. There's a joke, here's some wine, it's Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Devo chiosare velocemente sul concerto di Bruce Springsteen con un piccolo aneddoto personale che potrei evitarvi, ma poi è più forte di me, quindi lo butto in lo scaravento in diretta, i fattacci personali dell'Ariele. Allora, mi è capitato, sono svariati anni che capita che agenzie di concerto italiane mi contattino per registrare degli spot con la mia voce. Cosa che faccio e che è capitata spesso e volentieri. Mi è capitata con svariate agenzie di concerti, anche con l'agenzia di concerto che ha organizzato l'evento di Springsteen. È capitato questo, ho contattato Francesco, che è l'amico dell'agenzia che ha organizzato Springsteen in Italia, ma non per me, lo facevo per la mia mamma, che mi aveva chiesto: senti Ariel, non è che hai un biglietto di Springsteen, tu che lavori nel rock? Perché mia mamma, cioè, non è che crede che parlo con Springsteen, però quasi, capito? Mi ha visto gettare una laurea in giurisprudenza nel water, quindi un po' ci credeva che io riuscissi a farla entrare al concerto di Springsteen. E invece no, non me l'hanno dato il biglietto. Non sono riuscito a scroccarlo. Volevo ringraziare Francesco per la figuraccia che mi ha fatto fare e salutare tutti voi che siete andati al concerto. Basta, chiudo qui. E volevo anche salutare la mia mamma dicendole: ci rifaremo con qualche altro concerto. Mentre chioso anche la concorrenza di concerti, perché giustamente mi segnalano ieri sera era anche nottata di metallo, niente male, perché c'erano Halloween e Gamma Ray. Saluto in botto anche voi, e c'è da dire che i messaggi riguardanti il boss erano un po' di più, vabbè, era un po' più evento. Ma chiusa qui la discussione, 7:51 minuti primi, si prosegue pane, burro e rock and roll con i Grand Funk Railroad. Oh yeah. We'll be right back.